Primo commento, quello sul dato della povertà, sicuramente è allarmante, perché noi abbiamo una povertà che cresce, che raggiunge appunto un terzo della popolazione italiana in modo quasi trasversale, ci tengo a sottolineare il quasi, perché poi sono dati che se da un lato ci parlano di povertà, ci dicono che la povertà appunto aumenta soltanto per alcuni strati della nostra società, appunto i più giovani, i disoccupati, il 59% dei disoccupati in Italia è a rischio povertà o a grave deprivazione materiale, dove appunto gli indicatori di deprivazione materiale significa non riuscire a comporre adeguatamente i pasti durante la settimana. Tuttavia però sono dei dati che ci ricordano, ci segnalano anche due altre cose, ovvero in un periodo, quello del 2015, sì, seppur sparuta, ma crescita economica, questa crescita si è andata a distribuire in modo molto diseguale, ovvero il 20% più ricco della popolazione guadagna da questa crescita molto di più, e quindi oggi abbiamo appunto a fine 2015 che il 20% più ricco della popolazione detiene il 40% di tutti i redditi nazionali, mentre il 20% più povero detiene soltanto il 6,3% di questi redditi. Questo significa che tra chi sta nel 20% più basso e chi sta nel 20% più alto c'è una distanza di almeno 6 volte, per non considerare quelle che poi sono le diseguaglianze verso appunto la parte ancora più alta della piramide sociale, che è quel 10 o addirittura l'1% delle superstar. Da dire c'è appunto che questa, diciamo, crescita diseguale è spinta e trainata sostanzialmente dal lavoro autonomo dei professionisti, che in un anno tra il 2014 e il 2015 aumenta addirittura dell'11,2%, mentre per il lavoro dipendente il reddito aumenta soltanto, se non erro dai dati, del 2,3%, quindi significa che comunque le politiche messe in atto e l'andamento dell'economia lasciato appunto con queste condizioni e questi paletti crea da un lato poca crescita, una crescita che però viene concentrata nelle mani di pochi, che poi sono sempre gli stessi, perché appunto la mobilità sociale in Italia è ferma, e dall'altro lato però un forte impoverimento delle fasce più deboli. Esatto, quindi potremmo dire che in un certo senso la crescita c'è, ma di disuguaglianze e di rischio povertà. Tu lo citavi appunto, è solo un quinto della popolazione che vede crescere il proprio potere d'acquisto, quindi l'aumento delle disuguaglianze. È un fenomeno solo italiano questo? No, non è un fenomeno solo italiano, perché le diseguaglianze comunque aumentano negli ultimi anni e sono ovviamente esacerbate con la crisi anche nel resto, diciamo, dell'Europa, cioè dell'Occidente, e anche in altri paesi dal punto di vista globale più generalizzato. Quello che però sappiamo è che in Italia, così come in alcuni paesi europei tipo la Grecia e la Spagna, e quindi li cito non a caso perché sono appunto i tre paesi su cui, insieme al Portogallo, l'austerità e quindi anche le politiche restrittive che sono andate in qualche modo a far gravare il peso della crisi davvero soltanto su un pezzo della società, che è quello che stava già peggio relativamente agli altri, si trovano nella classifica europea come i paesi più diseguali. E questo appunto non è né un caso, ma soprattutto dice chiaramente e spiega chiaramente quali dovrebbero essere in qualche modo, no, le politiche antitetiche a quelle adottate fino a questo momento. Poi appunto ne apprendiamo un paese come la Germania, che è molto meno diseguale dell'Italia in termini assoluti, poi però se andiamo a guardare cosa succede dentro la Germania sappiamo che povertà e diseguaglianze aumentano. È interessante, vedendo i dati dell'Istat, notare che, come dire, la povertà riguarda tutti. Cioè il rischio povertà riguarda tutti, sia gli individui che le famiglie, che invece insomma negli anni all'inizio della crisi sono state una sorta di welfare, no? Si parlava del welfare familiare come ultima spiaggia per salvare. Quindi anche le famiglie, come dire, hanno iniziato a subire l'erosione del rischio povertà. Dubbi, anche perché poi se pensiamo alle famiglie, diciamo, la composizione di un nucleo familiare all'inizio della crisi, oggi probabilmente i figli sono usciti da quello, no, dallo stato di famiglia in sé, e i trasferimenti tra i genitori e nonni e figli o nipoti non bastano più in qualche modo per recuperare davvero, cioè, quel vuoto che invece è creato da appunto le istituzioni, le politiche del lavoro, le politiche redistributive per quanto riguarda la casa, eccetera, anche perché quei soggetti, a che se ne dica, no, in questo paventato spesso scontro generazionale, sono soggetti che appunto o erano nel mercato del lavoro e sono stati espulsi, o comunque che hanno dei redditi che non sono aumentati nel tempo. Appunto la crescita, come abbiamo detto prima, si distribuisce a beneficio soltanto un pezzo piccolo della popolazione, e la stessa cosa avviene sulle pensioni, perché appunto noi ci ritroviamo comunque con uno schema reddituale che poi deve andare a coprire delle spese di necessità, e che prima, anche se in parte, no, con un sistema di welfare non universale come quello italiano storicamente, riuscivano però a essere coperte da un reddito indiretto. L'Istat sottolinea che sono lontani gli obiettivi della strategia europea 2020, in particolare, come dire, gli obiettivi sono lontani di 5.255.000 unità di persone appunto a rischio povertà. Quindi insomma l'Europa con le sue politiche non riesce neanche a raggiungere gli obiettivi che lei stessa si prefissa. Sì, diciamo che gli obiettivi che si prefissa sono in qualche modo illusori rispetto a quella che poi invece è l'azione politica messa in campo, e quindi appunto ci siamo detti l'austerità, il taglio della spesa sociale, il taglio dell'istruzione, la flessibilizzazione del mercato del lavoro, una concentrazione speculativa degli immobili, delle rendite finanziarie eccetera, vanno tutte a favore di una maggiore polarizzazione e accentramento quindi di reddito e ricchezza all'interno della società. E come no, se ci fosse uno strabismo, per non dire appunto altre forme non lungimiranti dell'atteggiamento, diciamo, della politica europea rispetto a quelle che sono però le basi, poi magari non voglio dire scientifiche, però appunto di analisi del reale e di cosa sta succedendo effettivamente nel corpo sociale.